24 mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 17 minuti inizia la terza parte di 24 mattino di questo mercoledì 29 aprile. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia, buongiorno Maria Latella, ciao. Buongiorno, buongiorno, e quando si dice che mal comune mezzo gaudio non è molto consolante, per carità, ma è proprio questa la mattina, per notare che, come dicevate anche prima con Paolo Mieli, la fase 2 sta partendo tra stop and go un po' dappertutto in Europa. Della Germania avete detto, in Francia è importante segnalare che c'è veramente un parallelismo tra quanto sta succedendo in Italia politicamente, dove c'è un tentativo, no, di sferrare un attacco a Conte, di riprovarci esattamente come succedeva prima del Covid-19 per mettere un altro e evidentemente cambiare anche governo, quindi qualcuno tornare ad avere posizioni da ministro che non ha più. Il punto è che sta succedendo la stessa cosa anche in Francia, nel senso che Edouard Philippe, il premier, che nei sondaggi è più popolare di Macron, potrebbe essere il capro espiatorio di una situazione che ieri lo ha visto molto sotto accusa da parte dell'opposizione e non solo, anche da parte di qualche parlamentare del partito di Macron, della République En Marche, particolarmente il partito di destra, Les Républicains, ha detto: ma senta Edouard Philippe, se lei fosse un francese come un altro, avrebbe fiducia nelle misure che state prendendo, che sta prendendo Macron? Quindi diciamo che la situazione tra Italia e Francia, sì, in termini di fase 2 e di attacco al governo, sì, è pari, sì, è uguale. Da vedremo dire, come si svilupperà. Da dire Maria, vabbè, tu sei più conoscitrice di me delle cose francesi, da dire che però ieri il premier francese si è presentato in Parlamento e ha illustrato un piano con tutta una serie di indicazioni. L'11 maggio viene conservata in parte la riapertura delle scuole solamente per alcuni territori, poi piano piano si andrà avanti, un piano che parte l'11 maggio e proseguirà nelle prossime settimane. Ha annunciato i 700.000 test sierologici a settimana che farà la Francia, ha comunque dato l'idea di avere una strategia complessiva di qui a giugno. Questo, con molta prudenza. No, con molta prudenza. E tra l'altro, anche con molta prudenza, se posso Maria, anche con l'umiltà di dire, ragazzi, se queste cose non funzioneranno, siamo pronti ad arretrare, perché questo nemico non lo conosciamo, no? È un po' il gioco che stanno facendo. Da un lato Macron, che dice apriamo, il Presidente della Repubblica aveva annunciato, sì, che le scuole tutte sarebbero riaperte, e invece Edouard Philippe che tira il freno, sì, a mano. È un po' lo stesso gioco che stanno facendo in Germania. Angela Merkel, molto prudente, sì, e molto saggiamente prudente, perché ha avuto ragione lei, e invece il Ministro della Salute Jens Spahn, che siccome diciamo punta alla leadership, tende a essere molto più aperturista. Io vedo dei grandi parallelismi, sì, in Europa, e come dice anche Vittorio Colao nell'intervista che ha dato, ebbene, o si gioca in chiave europea tutto, o se no, se ciascuno fa le sue piccole mosse, non ne usciamo. Per fare un esempio, o tutte le compagnie aeree europee si mettono d'accordo e decidono che riaprono gli aeroporti, per dire, un aeroporto in Francia importante come lo scalo di Orly è chiuso da settimane, sì, o riaprono tutti insieme con questo passaporto sanitario di cui si comincia a parlare e magari aiutano in questo modo il turismo europeo, oppure sarà un bel problema. Allora, noi iniziamo oggi non da Covid-19, ma dalla notizia, dalle foto che trovate anche un po' su tutti i giornali oggi. Qualcuno di voi avrà visto la diretta, insomma la posa, così possiamo chiamarla, dell'ultima campata del ponte che sostituisce il ponte Morandi, e quindi un questo segnale, no? Questo segnale positivo, fuor di retorica, che arriva dal paese, che ci dice che certe cose si possono fare e si possono fare in tempi decenti. Marco Bucci, sindaco di Genova, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Maria, prego. Buongiorno sindaco. Senta, io fuor di retorica vorrei chiederle, se può, di farci un elenco delle cose che hanno consentito di avere, di riavere il ponte di Genova in tempi così rapidi, a cominciare certamente dal fatto che l'architetto Renzo Piano ci ha messo la sua disponibilità totale e gratuita, consentendo di non dover passare attraverso tutti i passaggi burocratici di un appalto. Ma per capire come è stato possibile, ci allinea i fattori positivi che hanno portato a questa buona notizia con la quale cominciamo la puntata di questa mattina? Allora guardi, il decreto Genova ha definito innanzitutto una struttura commissariale, quindi una struttura di team dove le persone vengono scelte in funzione delle loro capacità e non in funzione dell'appartenenza politica, primo punto. Secondo punto, siamo andati in deroga al codice degli appalti usando il codice degli appalti europeo. Quindi l'unica deroga che c'è stata, che tutti dicono che abbiamo avuto un sacco di deroghe, questo non è vero, ce n'è stata una sola, che è quella di usare l'articolo 32 del codice europeo degli appalti anziché il codice degli appalti italiano, e questo già, vedendo i risultati, parla da sé. Dopodiché è necessario applicare le tecniche di gestione dei progetti, ovvero sia lavorare in parallelo anziché lavorare in sequenziale. Se io devo chiedere 20 pareri, li chiedo tutti quanti assieme, lavoro tutti assieme. Se devo aprire 4 cantieri diversi, li apro nello stesso momento. Se devo demolire un ponte e poi ricostruirlo, comincio a demolire e pian piano costruisco, comincio a costruire prima di aver demolito tutto. Cioè lavorare in parallelo, che comporta ovviamente più difficoltà, più gestione di rischi, ma è il segreto per ammazzare i tempi. Sindaco, siamo, guarda, è un paradosso, no? Perché siamo nell'ambito di cose che a buon senso sono banali, no? Cioè, mi sbaglio. È esattamente questo il discorso. Se poi le dico il terzo è applicare le strategie, le regole, i comportamenti del project management e della gestione dei progetti che ci sono nell'industria privata. Io ho fatto 35 anni nell'industria privata in America. Le assicuro che queste cose sono assolutamente banali per chiunque ha fatto questo tipo di lavoro. Abbiamo soltanto applicato al pubblico quello che si fa regolarmente nel privato. E questo è il sistema vincente. Adesso non voglio citarle tutte le tecniche di project management, perché se no per carità. Però è proprio questo il segreto. Cioè bisogna imparare a gestire le cose con capacità e professionalità, non con strumentalizzazioni politiche o con secondi fini. Ecco, qui il fine, ho dimenticato, cioè, aggiungo poi un'altra cosa, tutta la parte amministrativa e diciamo pubblica, cioè tutte le amministrazioni di Genova, compreso il governo, si sono trovate tutte allineate con un obiettivo, e l'obiettivo era quello di facciamo il ponte più in fretta possibile, tutto il resto non conta. E quando c'è l'allineamento, soprattutto tra chi deve decidere, ecco, allora tutto è estremamente più facile. Se si usano queste cose invece per fare politica strumentale, allora per forza che poi si ritarda, per forza che uno tira da una parte, l'altro tira dall'altra e non si conclude niente. E siccome sono di Genova, le do un paragone. Su una nave c'è un comandante, c'è un equipaggio e tutti quanti vogliono andare alla stessa direzione, che vuol dire arrivare in porto. Se nella nave ognuno comincia a fare per conto proprio, alla fine la nave non va, alla fine sugli scogli affonda. Maria. Eccoci, io sono particolarmente legata a Genova, lo devo ammettere, ci ho passato 14 anni della mia vita. Le chiedo, i genovesi hanno reagito molto compostamente a una tragedia che è stata anche una botta enorme sotto il profilo economico per tanti abitanti della città e anche in parte per la regione. A questa botta enorme si è aggiunta ora la crisi del coronavirus. Lei come si regolerà per la fase 2, tenendo conto del fatto che c'è una popolazione anziana ma anche un'economia che era già in grandi difficoltà, eppure il turismo stava andando benissimo a Genova, c'erano le navi da crociera che sbarcavano migliaia e migliaia di turisti. Come farete adesso? Avete un piano per recuperare almeno in parte il turismo in città? Sì, noi abbiamo un piano preciso per recuperare la parte commerciale, la parte turistica e anche la parte industriale di alta tecnologia. Senza contare che i traffici nel porto, che sono diminuiti ovviamente nel mese di marzo e anche all'inizio del mese di aprile, poi dovranno ritornare, perché Genova è la porta d'ingresso di tutto il nord Italia, anche della Svizzera e diciamo di tutta la parte sud Europa. Quindi queste cose vanno tutte recuperate. Il segreto, la strategia che vogliamo mettere in piedi è quella di avere i piani pronti non appena si riparte. Chi è pronto ed è pronto prima degli altri avrà dei vantaggi economici e dei vantaggi di business, questo è indubbio. Sono certo che ci sarà il messaggio chiaro: le vacanze quest'anno si fanno in Italia, ed ecco lì che la Liguria diventa e Genova diventano estremamente competitivi sul fatto che gli italiani vogliono fare le vacanze in Italia, e quindi noi siamo pronti a ospitare, ovviamente seguendo le regole, ovviamente seguendo tutte le disposizioni. Ricordiamoci una cosa: l'Italia ha 7.000 chilometri di coste. Ecco, questo argomento, cioè le spiagge, la navica da diporto, il mare, l'estate, eccetera, non è stato ancora affrontato. Noi stiamo parlando col governo per mettere insieme dei regolamenti specifici che consentono ai cittadini di utilizzare le spiagge, di utilizzare la balneazione, di utilizzare la nautica da diporto e di poter fare un'estate come si deve, ovviamente con rispetto delle norme per evitare il contagio. E stiamo mettendo insieme tutto questo lavoro con gli esperti e mi auguro che queste cose arrivino nelle prossime 2-3 settimane, perché dobbiamo mandare il segnale a tutti che l'estate si può fare, ovviamente seguendo le regole. Sindaco, mi faccia tornare sulla questione del ponte di Genova, perché lei ha sollevato tre questioni in realtà interessanti e tutte collegate. Ora, il ponte di Genova è sicuramente un caso particolare per tutta una serie di motivi, non fosse altro perché era sotto l'occhio, sotto i riflettori di tutti, no? Ovviamente, compresi i controllori. Allora, un modello come quello del ponte di Genova, come può essere applicabile in altri luoghi d'Italia, magari anche medio-piccoli, su cantieri più piccoli, in termini per esempio appunto di controlli, in termini per esempio di capacità progettuale delle pubbliche amministrazioni? Insomma, lei ha parlato di project management, ma immagino in un comune di 50, 60, 70 mila abitanti, insomma, sia difficile trovare nella pubblica amministrazione qualcuno che abbia una qualche nozione di questo tipo. Ci dà una misura da amministratore locale di che idea si è fatto? Guardi, per il project management noi abbiamo utilizzato un'azienda che è Rina e ha funzionato benissimo, e questo può essere il 4-5% del budget totale, può essere gestito da un'azienda che, privata, che fa project management, diventa braccio destro dell'amministrazione, e project management si occupa della direzione dei lavori, si occupa dei controlli, si occupa del piano di progetto, si occupa della best option. Adesso non voglio andare in tutte queste terminologie tecniche, sì, però fa il lavoro che dovrebbe fare l'amministrazione come direzione e controllo. Quando l'amministrazione non è in grado di avere le persone, cosa che può essere, allora si utilizzano i privati come sbracci dell'amministrazione. È ovvio che ci vogliono delle capacità manageriali, ma questo è evidente, ma i nostri amministratori devono essere manager, devono avere capacità manageriali, perché sono al servizio della città. Non dimentichiamo che gli azionisti della nostra amministrazione sono i cittadini e noi dobbiamo lavorare al servizio e per i cittadini. E quindi ci mettiamo nei confronti delle opere pubbliche come se facessimo un servizio ai cittadini. Questa è la forza della mentalità che poi si crea. Se noi invece pensiamo all'amministrazione come un ostacolo verso i cittadini, come è stato talvolta in passato, ecco, allora siamo perdenti. Maria. Sindaco Bucci, mi scusi, torno alla domanda con la quale ho cominciato. Quanto ha influito il fatto che non si dovesse passare attraverso un appalto per il progetto di piano che l'ha messo a disposizione gratuitamente? No, no, no. Quanto ha accelerato? No, mi scusi. Allora, io devo ringraziare l'architetto Piano che ci ha messo a disposizione il progetto gratuitamente. Ma se fossimo andati col codice di appalti italiano, dopo il progetto c'è da fare il progetto definitivo, c'è da fare il progetto esecutivo, e c'è da fare la gara per l'attualizzazione. Sono tre gare differenti. Quindi il codice degli appalti prevede tutti questi passaggi attraverso gara, per cui ci vogliono almeno dai 2 ai 3 anni prima di poter partire con i lavori. Seguendo invece la legge del codice degli appalti europeo, noi con una manifestazione di interesse abbiamo selezionato il progetto migliore, non soltanto come progetto iniziale, come idea progettuale, ma anche tutto il progetto sino alla completa esecuzione. E questo secondo me è il grosso vantaggio, e l'abbiamo fatto in 3 settimane e mezzo. Questo è il vantaggio, e con tutte le responsabilità, perché io e tutto il team ci siamo presi le nostre responsabilità, che è l'altro punto chiave che avrei voluto sottolineare. Gli amministratori si devono prendere la responsabilità, si devono mettere la faccia, consapevoli che se va tutto bene magari vengono rieletti, consapevoli che se va tutto male devono dare le dimissioni. Questo è come il sistema funziona. O dovrebbe funzionare, Bucci. Ma alla fine deve funzionare così, sì. Perché i cittadini sono intelligenti e i cittadini prima o poi riconoscono chi sa fare il lavoro e bocciano chi non lo sa fare. Dobbiamo fare in modo che il sistema sia così, altrimenti diventa un caos totale. Senta, sindaco, mi faccia in chiusura, poi non so se Maria ha un'altra domanda, Maria Latella un'altra domanda, tornare a Covid. Mi dice cosa succede a Genova, così abbiamo un esempio pratico, no? Cosa succede a Genova il 4 maggio? Il 4 maggio noi apriremo alcune attività commerciali, ovviamente, che adesso sono chiuse, secondo il DPCM, apriremo i giardini e i parchi, come dice il DPCM, e anche le spiagge. Ma lo faremo seguendo le regole del DPCM, quello che ha firmato Conte lunedì, mi sembra l'altro ieri, e che va in vigore il 4 maggio. Noi saremo allineati completamente con il governo, abbiamo fatto soltanto alcune eccezioni per quanto riguarda la nautica da diporto, la preparazione delle barche, la manutenzione sulle barche, non perché vogliamo fare cose diverse, ma perché queste cose non erano state incluse. E questo è un settore che per noi a Genova e sulla Liguria è estremamente importante. Mi ha fatto molto piacere che quasi tutte le altre regioni d'Italia che sono sul mare hanno preso esattamente gli stessi provvedimenti. Sindaco, l'ultima cosa proprio. Mi scusi una cosa sola, stiamo lavorando, come ho detto prima, per il diporto, per concedere alle persone di andare in mare. Le dico perché. Perché intanto andare in mare si è isolati, non c'è contagio. L'acqua di mare è perfetta, è salata, per cui voglio dire non permette nessun virus. E quindi oltretutto le persone che vanno in mare poi non sono in terra, quindi si disperdono su una superficie estremamente più larga che non quella della terra. Quindi è un grande vantaggio. Sempre chiudendo, diciamo, sul turismo e sull'estate che ci attende, lei come amministratore è favorevole a questa ipotesi del passaporto sanitario che per esempio stanno esaminando in Croazia e in altri paesi europei, il che consentirebbe anche forse di riaprire un po' al turismo europeo? Secondo lei può funzionare questo passaporto sanitario? Se fosse al 100% di certezza, sì. Il problema è che non sono al corrente oggi di una tecnologia o di un check o di un qualcosa che mi possa dire se una persona è contagiosa o no, perché è estremamente difficile poter dire questo, e magari uno lo potrebbe essere con certezza al momento X e dopo un quarto d'ora, 20 minuti potrebbe essere esattamente l'opposto. Ma io non sono al corrente di una tecnologia che mi dice di vedere se una persona è contagiosa o no. La ringrazio, grazie Marco Bucci, sindaco di Genova, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. E buon ponte di Genova, finalmente che ci sia una buona notizia, fa bene al cuore. Non vorrei che tutti pensassero che il ponte è finito, abbiamo ancora 2 mesi di aprile. Certo, certo. Arrivederci. Naturalmente. Salve Bucci, salve. Una pausa e poi parliamo con Enrico Letta. Mattino. 349-238-6666 per gli sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, e l'800-24-00-24 per intervenire in diretta. Enrico Letta, ex presidente del Consiglio, direttore della Scuola di Affari Internazionali dell'Istituto di Studi Politici di Parigi. Letta, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Maria, prego. Buongiorno Enrico Letta. Allora, abbiamo un po' accennato già in questa mattinata delle similitudini tra la situazione politica italiana per la fase 2 e quella che si sta creando nel resto di Europa, almeno nei paesi a noi più vicini, la Francia, la Germania, la Spagna. Sembra che ci siano due linee che si confrontano, quella più prudente, per esempio in Germania Angela Merkel, e quella che invece spinge di più per tornare alla normalità, sempre in Germania Jens Spahn. Stessa cosa in Francia, Macron aveva detto le scuole si riapriranno l'11 maggio e ieri il primo ministro Edouard Philippe ha detto si riaprono prima gli asili, le scuole materne, non sarà obbligatorio, i genitori possono decidere se mandarli o no, i licei non sappiamo quando li aprono, per citare solo il tema scuole. Lei vede un parallelismo tra tutti i governi presi tra due fuochi in Europa? Sì, sicuramente, e sicuramente il parallelismo principale è sul fatto che era più facile chiudere che riaprire, questo è quello che sta emergendo, cioè la decisione della chiusura in fondo non è una decisione semplice, o chiudere oppure chiudere, no? E quindi quando c'è stato bisogno di farlo, il parere dei tecnici e poi la scelta della politica è poi stato fatto. Molti hanno reagito bene, io lo sottolineo sempre, io vorrei che facessimo tesoro noi italiani della straordinaria resistenza che abbiamo dimostrato e stiamo dimostrando tutti, è un tesoro sul quale costruire per il futuro, non soltanto perché ora siamo in emergenza. E però adesso la questione della riapertura ovviamente è molto più complessa, perché intanto perché non ci sono certezze sul fatto dei contagi che riprendano, dico cose ovvie, sono cose che tutti stiamo vedendo. I dati che stanotte sono arrivati dagli Stati Uniti sono decisamente inquietanti, dove hanno raggiunto ulteriori picchi di decessi, quindi mentre noi pensiamo alle riaperture bisogna renderci conto che la situazione rimane dal punto di vista sanitario molto complicata. E poi perché siamo tra due fuochi, tutti i paesi europei, cioè da una parte il tracollo della nostra economia e dall'altra parte la necessità di salvaguardare vite umane. Ed è evidente che le due cose sono correlate, perché il tracollo dell'economia comporta in sé poi anche la capacità o meno di avere mezzi per rispondere anche all'emergenza sanitaria. Quindi in questo momento credo sia molto complesso, i governi di tutta Europa stanno cercando di trovare una via di mezzo tra queste due esigenze, fermo restando che la sanitaria deve rimanere assolutamente quella principale. Mi sembra che emerga, Letta, un po' da tutte le parti, in maniera più accentuata forse in Italia, che è un classico nostro se vogliamo, in maniera meno accentuata in altri paesi come la Germania, o forse una via di mezzo la Francia, una certa incapacità di pensiero strategico. Certo che siamo di fronte in terra ignota, di fronte a un nemico del quale non comprendiamo i contorni, tutto quello che vogliamo e tutte le metafore di guerra che vogliamo. E però, insomma, una certa incapacità di pensiero strategico su che cosa fare nei prossimi mesi, che cosa succederà, mi sembra che ci sia. Lo chiedo quasi allo scienziato politico, insieme all'ex politico, diciamo. Sì, penso che sia una vicenda che ha messo a durissima prova la capacità della politica di pensare lungo e strategico dovunque. Io in questo caso mi sento di difendere i leader europei, non per partito preso, magari chi ci ascolta penserà che essendo europeista convinto lo faccio così, ma a chi pensa che hanno gestito male le cose li invito a guardare un attimo come si sono comportati tre grandi paesi del mondo guidati da Trump, da Bolsonaro e da Boris Johnson. Francamente mi sembra che tutti i leader europei hanno dimostrato molta maggiore saggezza rispetto a questi, e credo quindi che la difficoltà sia una difficoltà oggettiva. A me piacerebbe che i leader europei, quando si incontrano, oltre a fare le scelte che stanno facendo importanti su quali scudi economici e finanziari, come intervenire per la disoccupazione, questa novità del piano SURE che la Commissione europea ha messo in campo, la prima volta che si fa una cosa sul sociale contro la disoccupazione a livello europeo, perché fino a ieri la Gran Bretagna con i suoi veti aveva sempre bloccato tutto, adesso che è uscita c'è lo spazio per farlo, una grossa novità. Ma io vorrei che oltre a questo i leader europei si coordinassero anche esattamente su quello che lei ha detto appena due minuti fa, cioè la necessità di un coordinamento strategico su un pensiero sul futuro. E qui vedo invece una difficoltà, perché ognuno ha un po' l'idea che se la risolve a casa sua, per conto suo, e che ognuno è diverso dall'altro. E c'è sempre un po' l'idea che il vicino è un po' peggio di te e che comunque tu sei meglio del tuo vicino. L'abbiamo subita anche noi, chiaramente, i primi passi della crisi ci hanno guardato tutti un po' come dire, vabbè, ma sono i soliti italiani che hanno i loro problemi. No, poi dopo abbiamo fatto capire, purtroppo col dramma che ha toccato tutti, che non è questione di Italia o di Spagna, la questione riguarda tutti, riguarderà tutti. Quindi, in sintesi, io vorrei che i leader europei discutessero tra loro di come dare mandato a livello europeo a un organismo emergenziale che sia in grado di coordinare questi sforzi e di fare questa riflessione di pensiero strategico, cosa che fino adesso non sta avvenendo, perché in Europa purtroppo c'è sempre la stessa contraddizione. Si chiede ma l'Europa cosa fa, e poi non si danno poteri all'Europa sufficienti per fare, perché ognuno se li vuole tenere a casa sua. Si vive sempre in questa eterna contraddizione, poi scaricando facilmente tutte le colpe naturalmente sull'Europa, e finisce che è una specie di circolo vizioso. Io vorrei che questa diventasse un altro passaggio, anche perché, scusate se prendo altri 30 secondi, noi stiamo entrando in una fase che dire terra incognita è dire poco, ma soprattutto una fase estremamente intricata, perché entriamo in una fase in cui chiederemo più welfare, cioè più sanità, avremo meno crescita e avremo debiti che esplodono. Un mondo, un'Europa, un'Italia nella quale queste tre saranno le caratteristiche essenziali, più sanità che chiediamo, meno crescita perché ci sarà meno crescita e debiti che salgono pesantemente, sembra, vedendola così, un'equazione dalla soluzione impossibile. Ma siccome questa è l'equazione che ci è data oggi da affrontare, questa è quella che i nostri leader, i nostri governanti, tutto il nostro sistema, tutti coloro che hanno responsabilità anche economiche devono mettersi in testa di provare ad affrontarla. Maria? Enrico Letta, due giorni fa Le Monde, in una doppia pagina, notava come attorno ai governi in carica, sempre parlando dell'Europa, ci sia il sostegno dell'opinione pubblica. Angela Merkel è risalita, proprio è schizzata nei sondaggi, il Premier Conte ha un alto gradimento, piuttosto notevole considerate le circostanze, Edouard Philippe ha un buon gradimento e anche Macron, che non stava andando bene nei sondaggi, è risalito. Quello che se la passa peggio è Sanchez in Spagna. Per contro, vediamo che invece, almeno in Italia soprattutto, ma anche un po' in Francia, si parla di sostituire Conte in Italia, oppure in Francia si parla di dissapori tra il Presidente della Repubblica Macron ed Edouard Philippe. Come mai, secondo lei, c'è questo scostamento tra l'opinione pubblica che sostiene i governi e invece magari i media o comunque una fetta, diciamo, di classe dirigente che pensa a sostituirli? Lo chiedo a lei che, diciamo, nel settore sostituzione di presidenti del Consiglio ha una certa expertise. Sì, ma le aggiungo anche una terza considerazione, che è questa: mentre capita quello che lei sta giustamente raccontando, cresce in diversi paesi europei, Italia in testa, ma anche la Spagna, la Francia, l'anti-europeismo, cioè cresce il consenso nei confronti di governi che in tutti i nostri grandi paesi europei sono tutti governi pro-europei in questa fase, gli anti-europei sono nell'opposizione, però cresce l'anti-europeismo, quindi anche questa la metto nella categoria delle cose da cercare di capire quello che succede. Io francamente non farei paragoni tra il caso italiano e quello francese su questa vicenda, perché è vero che c'è discussione, c'è dibattito in Francia, si parla, gossip, potenziale Presidente della Repubblica che cambia Primo Ministro, ma non vedo paragoni, perché non si tratterebbe di un cambio di schema politico, sarebbe semplicemente di un cambio di primo ministro in un sistema francese che è molto diverso dal nostro, mantenendo lo stesso schema politico. Ben altra la discussione in corso, poi non so nemmeno se è in corso in Italia, diciamo, se ne parla da qualche parte, in qualche gossip, sì, una discussione di crisi politiche o di altro. Vedo che anche coloro che sono i leader che sono dentro questa vicenda, insomma, nessuno in questo momento dice esplicitamente questo, e tutti dicono esplicitamente che qui bisogna semplicemente rimboccarsi le mani, che la maggioranza deve fare la maggioranza, l'opposizione deve fare l'opposizione, il Parlamento deve esserci. Io su questo sono assolutamente d'accordo. Credo che sia oggi c'è l'intervista della Presidente della Corte Costituzionale che dice, sì, delle cose importanti sull'equilibrio necessario tra i poteri dello Stato. Credo che in Europa un grande segnale, e dobbiamo essere orgogliosi, perché ne è stato protagonista anche un italiano, il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, che ha voluto tenere aperto in tutti i modi il Parlamento Europeo facendolo votare da remoto, che è una novità assoluta nelle nostre democrazie, ed è un segnale molto importante, perché la nostra risposta europea, italiana, secondo me sarà migliore se non sarà solo tecnocratica, cioè se non sarà solo fatta dai tecnici, ma se ci saranno anche le voci di coloro che rappresentano il popolo. E questo fatto dei parlamenti aperti, nel momento in quale Orban in Ungheria chiude il suo senza nemmeno una data di scadenza, cosa che ha fatto sì che il Consiglio d'Europa lo abbia messo sotto, diciamo, con un riferimento molto molto negativo, perché la data di scadenza rispetto ai fini poteri è assolutamente fondamentale. Questo ci fa dire che questo equilibrio è complesso, va trovato, ma che ovviamente in questo momento crisi politiche, giochi politici, credo siano da tenere da parte. Sì, è molto probabile che lo pensino anche parecchi attori politici. Sentiamo anche qualche ascoltatore, va, non necessariamente sui temi che stiamo affrontando, però insomma le vostre voci sono sempre gradite, va. Ma che Stato è uno Stato che dà dei soldi a chi lavora in nero? Cioè, io capisco il bisogno di certe fasce, ma è un messaggio sbagliato. Visto che il governo ha imposto per decreto che non si può andare alle seconde case, ma è giusto pagare l'IMU per 12 dodicesimi per le seconde case? Sarebbe più opportuno defalcare i dodicesimi di riferimento che uno non può usufruire dalla seconda casa? Sui parrucchieri c'è da dire una cosa, parrucchieri e barbieri. Io ad esempio ho la barba, per carità, non potrei anche farmela da solo a casa, ma siccome il parrucchiere, come i capelli, potrei farmeli da solo a casa, ma vado a farmi fare la barba. E con la mascherina la barba come me la fa? Come vede Letta, noi siamo qua che parliamo di massimi sistemi, l'Europa certamente, i leader, le cose, poi gli italiani giustamente stanno qua a guardare, a vedere questa fase 2 come inizia, come non inizia, insomma lei ormai vive a Parigi, no? Come se la sta passando là? Ma guarda, in verità sono a Roma, perché quando abbiamo finito l'università da 2 mesi sono tornato a Roma, in un appartamento a Roma, nessuna seconda casa, capelli anch'io lunghi, per quello che io posso avere capelli lunghi, cioè mi tocca relativamente, mettiamola così, ma la questione, tutte le questioni toccate sono questioni assolutamente comprensibili e giuste. Io mi auguro che ci saranno nei prossimi settimane, mesi, che la situazione migliori, che ci possono essere degli allentamenti, però insomma io capisco la prudenza che è stata alla base delle decisioni e delle scelte che sono state messe. Credo che sia una prudenza assolutamente necessaria, tutti ce ne dobbiamo rendere conto, dobbiamo farci carico del fatto che immaginiamoci soltanto cosa vorrebbe dire che adesso si riapre in modo sconsiderato e poi riparte un picco di decessi. Sarebbe a quel punto veramente il tracollo anche psicologico collettivo del paese. Quindi io credo che l'impegno a tenere duro ancora e fare questa lente riaperture, pensando anche a come far ripartire l'economia, cosa che è assolutamente necessaria, perché se non riparte l'economia poi non ci sono nemmeno le risorse per tenere in piedi. A proposito di risorse, Letta, il nostro ascoltatore diceva: se io non vado nella seconda casa, allora fatemi pagare meno di IMU. Ci sarà una riduzione del gettito fiscale, perché ovviamente in tanti non ce la faranno a pagare le tasse, in tanti rinvieranno i pagamenti. Se l'Europa non decide in fretta e non arrivano i fondi europei entro giugno, lei ha avuto responsabilità di governo, quindi sa com'è, ma qui rischiamo davvero di non poter pagare, non voglio dirlo per non allarmare, ma insomma saremmo messi proprio male. Ce la farà l'Europa a avere tempi più rapidi per la concessione di questi fondi o no? Ma intanto partiamo col dire una cosa fondamentale. Stanotte Fitch, una delle agenzie di rating, ha dato una brutta notizia, cioè ha dato un downgrade all'Italia. Se non ci fosse l'Europa, che agisce ogni giorno con la Banca Centrale Europea, che compra per miliardi titoli del nostro debito, oggi noi saremmo sostanzialmente colpiti e affondati. Cioè oggi la vostra trasmissione si occuperebbe esclusivamente del tracollo sui mercati finanziari del nostro paese, di una sostanziale deriva all'Argentina. Ecco, voglio bene all'Argentina, ma insomma, mi scuso di questo paragone, ma ci capiamo così. E non avviene perché l'Europa sta pagando ogni giorno da ormai 3 settimane un stack, un assegno di 1 miliardo un giorno, 2 miliardi un giorno, che arrivano a sostenere il nostro paese, perché è l'Europa, la Banca Centrale Europea quella che sta intervenendo, e l'Italia, se non ho capito male le cifre che ho visto, per l'80-90% gli esborsi della Banca Centrale Europea vanno a sostenere l'Italia, poi un po' anche la Spagna, ma sostanzialmente l'Italia. Quindi noi già siamo sostenuti dall'Europa e in questo momento siamo in piedi, ancora in piedi, e siamo in grado di fare le cose che dobbiamo fare per questo motivo. Adesso le scelte che si aggiungono a queste sono le scelte che devono far sì che sulla disoccupazione, sul sistema sanitario e sulla questione centrale dell'economia reale, le 3 grandi scelte che sono state fatte e che il 6 maggio verranno confermate e meglio definite, vadano, come lei ha detto Maria Rapella, vadano effettivamente in decisione subito e soprattutto in implementazione subito. Spero che possiamo prendere in Europa le migliori pratiche dei migliori paesi che sono contro la burocrazia, che non siamo purtroppo noi, questo lo dico perché noi dobbiamo sperare di importare pratiche migliori contro la burocrazia, e che queste quindi risorse arrivino nei tempi più brevi possibili. Quindi il 6 maggio deve assolutamente esserci questa decisione finale, poi si deve passare alla fase dell'implementazione e dell'attuazione, perché come hanno detto i vostri ascoltatori, c'è bisogno assolutamente di sostegno, e c'è bisogno di farlo bene, e aggiungo nella regolarità, per cui anche il tema dell'evasione deve essere un tema sul quale fare un ragionamento di prospettiva serio. Si ripartirà solamente se calerà l'evasione fiscale del nostro paese, non se la incoraggerà. Sì. Senta Letta, allora qua non è che pratichiamo, no, l'anti-Germania, non è che siamo anti-Germania, anti-Olanda e via dicendo, non è che siamo contro i paesi del nord. Spesso abbiamo detto anche loro hanno le loro ragioni, nel senso che, così come per un pezzo della nostra politica sentire la parola MES è come la criptonite per Superman, così per loro parlare di condivisione del debito è come la criptonite per Superman. Ben quindi diciamo anche loro per molti versi hanno le loro ragioni. Intravede un rischio, perché poi anche i dati di oggi dalla Germania, quelli che arrivano sui contagi, sono dei dati che si riferiscono ai giorni scorsi, sono dei dati sui quali le autorità avevano avvertito, in realtà l'indice di contagio è già sceso un po'. Non vede il rischio che i tedeschi in particolare, ma anche gli olandesi, possano tendere a rinviare, cioè arrivare a un momento nel quale le cose saranno un po' più calme dal lato dei contagi, e quindi a quel punto si potrà dire: no, vabbè, insomma, su tutto quello che ci siamo detti ammorbidiamo le scelte? Io vedo questo rischio negli olandesi, lo dico molto francamente. La posizione del governo olandese: si sono trovati alla fine isolati, quindi sono stati costretti a venire a Fiumiti Consigli, anche a cambiare la narrativa con la quale all'inizio avevano veramente detto cose insopportabili. responsabili, il governo. Io distingo sempre il governo e il popolo, perché poi gli olandesi hanno dimostrato tante gente e tante parti del loro sistema politico, economico, culturale, molta attenzione nei confronti dell'Italia. La situazione tedesca la vedo diversa, nel senso che l'accordo della settimana scorsa al Consiglio europeo alla fine c'è stato perché i tedeschi hanno mollato gli olandesi nel loro oltranzismo e hanno deciso di andare a trovare una soluzione. E aggiungo, la soluzione che questo recovery fund di cui si parla, cioè questo fondo, grande fondo europeo per il rilancio, sia finanziata con il bilancio europeo, cioè con il raddoppio del bilancio europeo, che era in fase di discussione in questo periodo. Si parlava di un bilancio all'1% del PIL europeo, quindi una cifra addirittura inferiore a quella dei 7 anni precedenti. E adesso si parla addirittura di avvicinarsi per i tedeschi oggettivamente una svolta. E su questo dobbiamo chiudere. La ringraziamo. Grazie Enrico Letta per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata Letta. Allora Maria, noi ci risentiamo domani naturalmente 8:20, con tutti gli altri alle 6:30 come sempre. Non faccio in tempo a ringraziare la nostra task force. Dobbiamo chiudere GR, a domani.